Siamo con Mattia Della Puppa di Adler Entertainment per parlare del film Il mistero di Donald C. di James Marsh, in uscita in sala il 5 aprile. Mattia, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. Allora, lo raccontiamo brevemente? Lo racconto io quindi. Sì. Okay. Allora, la storia è una storia vera ed è la storia di Donald Crower, la mia pronuncia è sempre pessima, che è un regista amatoriale che decide di imbarcarsi nella più importante regata della storia, siamo nel 1968. È una regata in solitaria intorno al mondo e decide di farlo perché questa possibilità, la possibilità di vittoria, gli consentirebbe di vincere un importante premio in Idea. Crower è un velista amatoriale, ha esperienza di vela ma non è affatto un professionista e decide di costruirsi una barca, trova degli sponsor per farlo e decide di partire. Parte in condizioni che non sono ottimali. E quindi mettendo a repentaglio sostanzialmente la sua vita per un bene più grande che è la sua famiglia e il benessere della sua famiglia. Da qui poi non vi dico altro perché sennò vi spiego il mistero e non ha molto senso. Senti, una vicenda talmente cinematografica che era già stata attenzionata da altri lavori. Sì, è già stata una vicenda che è già stata trattata, un po' come è un caso abbastanza classico questo all'interno della cinematografia, quando una storia è potente pensare di raccontarla. È il caso anche, ad esempio, più recentemente di Imitation Game, la storia di Nigma è stata affrontata molte, molte più volte, ma effettivamente una serie di rimandi anche in qualche modo a quel film, un film molto inglese, molto, molto supportato da performance di recitazioni ottime. In questo caso specifico, appunto, il film era già stato, la storia era già stata affrontata. Affrontata anche in maniera relativamente recente, in un film per esempio negli Stati Uniti, in Inghilterra, perdonate, che si chiama Crower, Sì. so come dire, è una storia universale da questo punto di vista, molto potente, quindi non è la prima volta che viene affrontata, è la prima volta che viene affrontata probabilmente in questi termini, quindi con un'attenzione anche storica di un certo prestigio, con una certa attenzione, dovuta anche al fatto che il film è girato da un regista di grande corpo, di grande importanza, che ha vinto un premio Oscar con un'altra storia vera, che era quella di Stephen Hawking, per la teoria del tutto. Sì. Mattia, di questo lavoro cosa ti ha impressionato? La trova d'attore, principalmente. La trova d'attore di Colin Firth, che è strepitosa, veramente mostruosa. Senza contare, è facile parlare della metamorfosi fisica. Nel film c'è una metamorfosi fisica di Colin Firth che è impressionante, ha perso una roba tipo 20 kg più o meno, perché ovviamente poi durante la regata lui è da solo, quindi deperisce. E quella è la parte facile, paradossalmente. La parte straordinaria della sua prova d'attore è la tensione, il tormento che lui riesce a far passare, ed è quella che poi è stata apprezzata in maniera universale da tutti, non solo da me, che come dire, ne parlo dal punto di vista personale, ma ho meno titoli rispetto Sì. ai critici che hanno visto il film e hanno commentato la persona. Senti, dove hai visto il film e poi come avete deciso la distribuzione italiana? La prima volta, mi stai chiedendo? Sì, insomma, dove lo avete intercettato? Poi quando l'abbiamo visto in una proiezione privata, quando il film era già finito, e poi in versione finale l'abbiamo visto qui. Però noi l'avevamo prodotto sulla sceneggiatura per la forza della sceneggiatura, per la forza della storia e anche appunto perché pensavamo, cosa che poi si è verificata, che Colin Firth fosse assolutamente in parte e riuscisse poi a restituire una performance di grande livello, cosa che poi effettivamente è stata. All'estero dove è uscito già? All'estero è uscito in UK e Francia, vedendo dei risultati abbastanza buoni, diciamo. Tipo di uscita avete pensato? E è un'uscita, faremo circa 120 copie, quindi è un'uscita che coprirà tutto il territorio nazionale e con un focus particolare all'interno delle sale di qualità, quindi pensiamo che quello sia un pochino la parte principale, però nonostante questo abbiamo comunque pensato e siamo convinti del fatto che sia un film che abbia possibilità di successo anche in contesti non strettamente cittadini, proprio per l'universalità della storia che ha. Allora, ricordiamo il film Il mistero di Donald C. Di James Marsh, in uscita in sala il prossimo 5 aprile. Un ringraziamento a Mattia Della Puppa di Adler Entertainment. Mattia, un saluto e a risentirci presto.